salpitando sui miei sandali. Ritorna in primo piano il ciclismo e non solo per vicende legate al doping. Sabato 8 maggio scatta infatti il 92esimo Giro d'Italia, un giro nel quale per la prima volta i nostri corridori partono con ruoli da comprimari. I favoriti infatti, anche per la recente squalifica di Pellizzotti, sono tutti stranieri. Un giro che si conclude a Verona il 30 maggio, contraddistinto però da grandi salite come il Mortirolo, lo Zoncolan, il Gavia e Plan de Corones. La partenza del giro coincide anche col decennale della scomparsa di Gino Bartali, il grande rivale di Fausto Coppi, i due protagonisti della storia ciclistica del dopoguerra. Ne abbiamo parlato con Giampaolo Ormezzano, autore del libro Bartali e Coppi. Io penso che il ciclismo di base, usiamo questa parola che usiamo per i medici, no? Resta sempre quello, la gente lo capisce, lo sa, infatti continua ad andare in giro, non perché la corsa passa gratuitamente, come dicono taluni fessi, ma perché costa tantissimo andare sulla strada, aspettare la corsa, spendere in ore di lavoro non pagato, trasporto, sudori, panini, eccetera. Ci va perché percepisce l'esistenza di un assoluto naturale, ecco, posso dire così, un assoluto naturale. Mentre invece è cambiato l'uomo da allora, ecco, ci sono ancora tanti valori nel mondo di una volta, ma non ci sono più gli interpreti, gli esecutori, i protagonisti di questi valori, ecco. L'unica differenza tra il ciclista e gli altri sportivi è che lui ha l'antidoping efficiente, come peraltro diciamo anche gli sciatori di fondo e gli atleti dell'atletica leggera, e gli altri no, il doping non c'è solo dove non c'è l'antidoping. Il ciclismo ha fatto questa scelta savonaroliana di cilicio, di pagare sulla propria pelle gli errori, forse si purificherà e resterà solo uno dei pochi sport validi, forse no. In questa chiave il giro è un piccolo episodio, per di più senza campioni, con degli stranieri di secondo piano ma probabilmente destinati a dominare, e con i nostri che come cretini assoluti si danno il doping più banale, poi mentre ormai il calcio è un doping enormemente più efficiente, ecco, il panorama è squallido. Senti, tu hai scritto appunto di Bartali e di Coppi, si dice sempre che erano due non nemici. Assolutamente, si dice, ma non è vero. Io ho fatto il libro con i suoi figli che prendono pure i diritti d'autore, accidenti, io dico di più. Erano due rivali, non nemici, forse neanche amici, ma non nemici assolutamente. Senti, di quel tipo di italiani lì si dice che non c'è più lo stampino, è un po' così una nostalgia oppure... Beh, è sbagliato dirlo di tutti e due, perché due più diversi non c'erano, casomai non ci sono più due stampini. L'unica cosa che li accomunava era la modestia. Bartali ha fatto il partigiano e qualcuno dice addirittura ha evitato una guerra civile in occasione dell'attentato a Togliatti, non voleva che se ne parlasse, anzi Bartali partigiano è venuto fuori dopo la sua morte. Coppi si è fatto una prigionia in Nord Africa che poteva servire da attenuante per tutte le defiance, ha avuto un tormentone sentimentale e non voleva che se ne parlasse anche lui. Non hanno mai portato all'occhiello le cose belle o comunque le cose difficili, volevano accontentare la gente e pedalavano il loro fondale, specialmente quello per Coppi. Non esiste più, per riaverlo ci vorrebbe un'altra guerra, ma credo non sia il caso di farla, ecco. No, non è proprio il caso. Possiamo però far rivivere Gino Bartali ascoltando il ricordo di Alfredo Martini, storico CT della Nazionale di Ciclismo. È stato un grande fuoriclasse e poi è stato un uomo che ha rispettato il pubblico. Lui non è mai andato a una corsa per prepararne un'altra. Andava alle corse per vincerle o per essere protagonista. Penso che un campione che ha vinto nel 1938 un Tour de France e lo ha rivinto nel 1948 dopo un bruttissimo conflitto mondiale sia da additare, e sono cose che passano generazioni, e lui ha fatto sempre fronte a tutte le generazioni fino a che nel 1954 non smise la sua attività, un'attività di 25 anni. Ma con Coppi fu proprio così nemico o in fondo c'era una stima? No, diciamo non nemici ma nemmeno grandi amici, erano due che avevano fatto dividere l'Italia in due fazioni, i bartaliani e i coppiani, erano due che forse non erano indicati tanto per andare a prendere il caffè insieme, però si rispettavano. È tutto, ci sentiamo oggi alle 13:30, scriveteci controluce@radio24.it.